Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Quando ascolto la storia di uno che sta per cambiare vita, mi preoccupo sempre di tante cose, però sono tutte legate al viaggio: dove andrà, cosa farà, come si manterrà. Solo dopo un po' comincio a pensare al problema dell'eventuale ritorno, perché noi siamo fatti così, pensiamo, vabbè, se va male me ne torno a casa, come se fosse facilissimo, invece non è facile per niente. Ad esempio, magari anche alcuni di voi, anni fa, hanno lasciato il paese, la provincia e si sono trasferiti in città. L'ho fatto anch'io. E dopo un po' ti sistemi, hai una nuova vita, hai una casa, un lavoro, e magari ti viene un po' di nostalgia, o magari non è proprio come te l'immaginavi, magari pensi: mi piacerebbe tornare a casa, mi piacerebbe tornare dove sono nato e dove sono cresciuto. Sì, ma come si fa? Cosa ti inventi per lasciare il tuo lavoro in città e tornare a casa tua, tornare dai tuoi genitori, dai tuoi amici, al paese natio? Oggi parliamo di questo. Se l'avete fatto, se ci state pensando, 800 24 00 24. Da-dum, da-dum. Sul treno. Eh sì, anche se sono passati tanti anni da quando l'Equipe 84 cantava questa canzone struggente sugli emigrati che partivano e poi tornavano solo l'estate, solo ogni tanto per rivedere la propria famiglia e i luoghi natii, c'è ancora tanta gente che lascia il paese e poi ci vorrebbe tornare. Benvenuti, questo è Giro di Vita, il programma che ogni giorno vi racconta storie di chi ha cambiato tutto e ha inventato un nuovo inizio. Io sono Achille Corea e oggi parliamo proprio di questo, e ne parliamo come facciamo noi, sentendo un po' di storie. Per esempio, cominciando a sentire la storia di Tommaso Gaudiano, che si era trasferito a Roma, dove faceva il montatore video. Ha lasciato Roma, è tornato nella sua Basilicata e ha deciso di aprire un posto, una norcineria dove diffonde musica, cultura, gastronomia, prodotti tipici, e passando dalla sua saletta con computer e monitor a un sasso di Matera. Basilicata, che ne sai, vista mai, Basilicata, insomma, mai, nata. E allora sentiamo al telefono Tommaso Gaudiano, benvenuto. Buonasera. Allora Tommaso, hai lasciato Roma dopo quanti anni? 10 anni circa. Qual è stato il primo impatto pratico, il primo atto di ritorno a Matera? Il primo impatto è stato che poi ha fatto scaturire, diciamo, la vera volontà di fare questa cosa. È stato un novembre, siamo venuti a fare un salto qui a Matera per la raccolta delle olive dei miei genitori, che ormai avveniva per conto di operai. Ci siamo detti di andare a prendercelo un po' noi e abbiamo raccolto queste olive. Intanto ci siamo guardati attorno, abbiamo valutato un po' il territorio e da un'idea si è concretizzata grazie anche all'entusiasmo di altri ragazzi che come me sono tornati qui e che stanno cercando di fare anche loro qualcosa di interessante sul territorio. 10 anni in cui facevi il montatore video? Facevo il montatore video, libero professionista per diverse televisioni di Roma. E senti, ma quindi tu avevi un percorso anche abbastanza classico in quel settore, hai studiato cinema, hai cominciato a fare le tue esperienze, sei arrivato sui set, che cosa c'era che non andava? Personalmente a me ambivo a qualcosa di autonomo, nel senso creare una società di produzione, qualcosa che mi avvicinasse di più alla parte attiva, concreta, un po' più dinamica di questo aspetto, di questo lavoro. Invece poi è rimasto un po' come un dipendente, non mi ha più attratto così tanto, insomma. Poi la voglia di cambiare in generale, anche ambiente, anche città, insomma, ridimensionarla a una realtà più vivibile. Col passare degli anni è nata questa esigenza. Ecco, Tommaso, non si offendano gli amici romani, anch'io vivo qui da 15 anni e chi mi sposta, come si dice qua, ma che cos'è che non ti piaceva di una città come Roma? Non era Roma in sé il problema, era la metropoli, diciamo, i disagi che all'inizio sono stati molto affascinanti quando sono approdato a Roma, venendo da una piccola provincia. solo che con l'andare degli anni, anche crescendo, io sono cambiato un po' le esigenze, per cui insomma, le cose che mi affascinavano poi continuavano ad affascinarmi, solo che erano diventate pesanti realizzarle, spostarsi, tutti i disagi di una grande città. Appunto, non era Roma il problema in sé, Roma ancora mi piace, non è male, il problema è che come tutte le grandi città ha disagi anche a livello economici, anche a livelli ambientali, per cui insomma sarebbe piaciuto, che poi è ancora un tentativo questo di vedere che cosa succede invece in una città che non sia una metropoli. Ecco, io penso che tu rappresenti anche un po' il problema di chi ha provato la grande città con lavori che sono legati alla grande città, come il cinema, la televisione, la comunicazione, e poi dice: torno al paese, torno nella provincia, a fare che? Tu che cosa fai? Cosa hai fatto per tornare in provincia? Ma io innanzitutto, questo è stato anche l'input, diciamo, quello di provare a riversare anche l'esperienza fatta in questi anni in una realtà più piccola, riversando qui un po' di esperienza, insomma, con una cosa alternativa dove io ci metto anche del mio, cioè anche se ho aperto un'attività che si avvicina poco a quello che facevo, però mi dà la possibilità, essendo mia, di poter riversare all'interno parte della mia esperienza, avendo un po' di gusto artistico nella musica, qui dovrei fare mostre di fotografie, mostre d'arte, presentazioni di libri, comunque insomma dovrei riuscire a far orbitare attorno tutta una serie di passioni che ancora ho e di esperienza che ho. Tu avevi mai avuto, perché ricordiamolo, tu hai aperto una norcineria, avevi mai avuto esperienze di gestione di locali? No, mai. Il mio amico, il mio socio, sì, ha più esperienza di me. Diciamo, la mia è come dire, passione ed entusiasmo nei confronti di questo mondo, soprattutto se è legato anche all'integrazione con qualcosa di artistico, insomma qualcosa che passa dalle tue mani. Ho una domanda, ma le persone, non so, già a partire dai parenti o gli amici, che ti vedono ritornare da Roma, dal mondo dorato dello spettacolo, della televisione, del cinema, per tornare a vivere a Matera, come la prendono? Cosa ti dicono? La maggior parte di quelli, come dicevi tu prima, che vedono questo mondo come una cosa fatata, incantata, ti prendono un po' per pazzo, si è lasciato questo mondo, la città di Roma, poi soprattutto chi non ci ha mai vissuto, non stentano a crederci come impatto. Sono pochi quelli che effettivamente ritengono che hai fatto una scelta giusta, però spesso non sono nella tua testa, non hanno grande idea di quello che è il tuo progetto, insomma, che poi non è mai fine a se stesso, comunque è un tentativo, non è detto che vada in porto, ma comunque è un tentativo, come è stato quello di andare a Roma quando ci sono andato. Senti, ma tu hai proprio, diciamo, abbandonato un certo tipo di vita. Io so che il tuo locale, che però si chiama La Capagira, come un film, è proprio dentro un sasso, è proprio nel posto più lontano possibile, anche architettonicamente, da un palazzo, dalla città. Sì, sono pochi ancora gli abitanti della parte vecchia di Matera dei Sassi. Io vivo e lavoro all'interno dei Sassi, quindi mi sposto a piedi, ho recuperato anche questo aspetto ecologico, di stress minore, integrando sia il posto dove vivo che dove lavoro, insomma, all'interno dei Sassi, che si stanno tentando di rianimare un pochino. Da quant'è che ti sei trasferito? Sono 3 mesi che sono qui. E in questi 3 mesi c'è stato un momento in cui hai pensato: ma chi me l'ha fatto fare? Beh, certo, sì, perché poi l'impatto comunque da una grande città, una città più provinciale, più piccola, a livello di stimoli è ovvio, sei costretto a crearti di tuo, o insomma, rispetto a una città che invece te li dà quotidianamente a bizzeffe, è ovvio che ogni tanto c'è un calo, poi di fronte anche alla nuova esperienza, alle difficoltà dell'approccio burocratico con questa esperienza nuova, mi hanno fatto pensare alle volte, sì. E senti, qual è la cosa finora nel nuovo lavoro che non ti aspettavi e che è stata la difficoltà più grossa? Ma sinceramente è la cosa burocratica, che insomma può sembrare quasi che qui viaggi in maniera più celere rispetto ad altre realtà, invece la burocrazia è lenta dappertutto, anche qui. E questo credo che insomma molti ascoltatori e ascoltatrici di Radio 24 hanno un'idea di cosa tu stia parlando. Ti chiediamo 2 consigli per noi: la valigia e la zavorra. Tommaso, allora, cosa ti sei portato dietro? Cosa hai messo in valigia per questa nuova vita? Mi sono portato dietro l'esperienza di qualcosa che ho fatto, e quindi in qualche modo anche nella parte artistica, così nello stimolo artistico che posso aver messo anche qua nel locale, che è frutto un po' della mia esperienza sia professionale che di vita in una città diversa da quella mia di origine. E che cosa hai buttato, comunque cosa hai lasciato? Ho buttato sicuramente la macchina, perché mi muovo a piedi ormai, finalmente, dopo lo stress di Roma. Ormai non ti mancano più quelle mattinate sul raccordo anulare? Assolutamente no. E che strano. Ho recuperato la puntualità anche, cosa che avevo perso a Roma, facevo sempre tardi per questo motivo. Va bene Tommaso, ti ringraziamo. Se qualcuno dei nostri ascoltatori passa da Matera, ti trova lì alla Capagira a, diciamo, mescere e a diffondere musica. E noi andiamo avanti con la nostra storia, con il nostro giro di vita. Ecco 5 modi per prepararsi a questo cambio di vita. La domenica mattina sostituite la radio sveglia con il suono delle campane. Telefonate spesso a un'anziana zia per recuperare il vostro accento e l'uso del dialetto. Il sabato sera camminate avanti e indietro per la via principale per guardare le ragazze. Inventate almeno 2-3 aneddoti sui VIP conosciuti nella metropoli. Preparate il vostro stomaco a sopportare limoncello e liquori a 70 gradi. Se uno sconosciuto attacca discorso per strada, siate gentili. Probabilmente è vostro cugino. 19 minuti dopo le 4 del pomeriggio, ovviamente se state ascoltando la diretta, ve lo dico perché così magari ci chiamate all'800 24 0024 per raccontarci in che modo voi avete pensato o state pensando di ritornare al paese, di ritornare alle origini. Se state ascoltando la replica o il podcast, scrivetecelo, girodivita@radio24.it, o su Facebook, la nostra pagina si chiama come il nostro programma, Giro di Vita. E io, insomma, sentendo la storia di Tommaso, me ne sono ricordate altre, e per questo abbiamo un ospite. E se lo facessi io? Ecco, perché quando io sento le storie dei cambiamenti, dei cambi vita, allora io penso ad altre persone che mi dicono cose simili, tipo torno al paese, me ne torno a casa, abbandono la città, torno in provincia, e spesso torna questa cosa del torno e mi apro un agriturismo. C'ho la terra, c'ho un pezzo, ma poi figurati, lo trovo una vecchia casa, mi apro l'agriturismo, mi metto sull'agriturismo, mi improvviso l'agriturismo. Io ogni volta che sento la parola improvviso, vabbè. Vittoria Brancaccio, presidente di Agriturist, l'associazione agrituristica di Confagricoltura, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, lei ne conosce di gente che è scappata dalla città per aprire un agriturismo? Sì, credo che qualsiasi iniziativa che nasca da una fuga non possa che andare male. Bisogna prendere le cose con ragionevolezza, bisogna fare le cose con razionalità, bisogna partire anche nei lavori che riguardano l'agricoltura, come si può affrontare qualsiasi altra attività. È chiaro che la nostra è un'attività carica di suggestioni, carica di tradizioni, carica anche di emotività, che ben venga, però bisogna fare i conti con un po' di freddezza, credo, non solamente sulla spinta della passione. È ovvio che è un lavoro che senza passione non si può fare. Però, insomma, bisogna cercare di bilanciare un pochino la ragione con i sensi, ecco. Ecco, in sintesi, ovviamente, perché il tempo che abbiamo è quello che è, quali sono i passi, le cose essenziali per aprire un agriturismo? Se io cominciassi a lavorarci, cosa dovrei fare? Guardi, innanzitutto lei deve avere un'azienda in Italia, perlomeno per la legge nazionale e le leggi regionali che esistono, bisogna avere un'azienda agricola in attività, iscritta alla Camera di Commercio nel registro delle imprese agricole, e degli immobili rurali che non sono più disponibili per l'attività agricola, non sono più adatti all'attività agricola, che possono essere riconvertiti senza cambio di destinazione d'uso per ricezione, per ospitalità, per ristorazione. Ma non posso prenderli, mi scusi, non posso prenderli apposta? Cioè, se io non ho questi posti, posso prenderli e farne io un agriturismo? Deve sempre avere un'azienda agricola in attività e deve essere imprenditore agricolo. Deve essere già iscritto agli operatori, e certamente può prendere un'azienda agricola con gli immobili e iniziare un'attività agrituristica anche partendo al momento, però già deve esistere un'attività agricola. Ho capito. E ci sono finanziamenti, agevolazioni, cose del genere? Guardi, oggi i finanziamenti sono essenzialmente regionali, perché i fondi dell'Unione Europea vengono poi ripartiti fra Stato e Regioni, quindi sono le Regioni che pianificano e approntano i piani di sviluppo rurale. Quindi ci sono sicuramente, specialmente nelle regioni dell'obiettivo 1, vale a dire quelle meridionali, quelle che hanno un reddito di riferimento più basso della media italiana, ci sono dei fondi che possono riguardare anche le attività agrituristiche. Nella maggior parte delle regioni è così. Senta, se per qualcuno all'ascolto avesse questa idea, ma in questo momento stesse esercitando un lavoro completamente diverso, secondo lei qual è la cosa che uno non si immagina e che poi diventa una vera difficoltà? Guardi, che è una scelta di vita che va organizzata e che va anche considerata nella sua interezza, cioè partire sicuramente dal business plan e poi partire dalla considerazione che vivere comunque in ambienti rurali, in ambienti un pochino isolati, anche se oggi la ruralità non è più quella di una volta, presuppone di averci un'abitudine, una consuetudine, è un modo di vivere completamente diverso da quello delle grandi città. Ma mediamente, cioè, perché mi viene in mente poi la vita sociale e tutto, mediamente ci sono giovani che fanno questa attività? Guardi, ci sono giovani e ci sono anche molte donne, è un'attività prevalente, non dico prevalentemente, ma diciamo che le nostre aziende al 35-40% sono condotte al femminile. È sicuramente un'attività che si presta molto bene alle nuove generazioni di agricoltori, specialmente nelle aziende di tipo familiare, sono attività che spesso vengono intraprese dai giovani, queste della multifunzionalità, perché anche è una conquista relativamente recente del settore agricolo, questo di poter avere un'apertura sul multifunzionale, su svolgere più funzioni, fra cui anche quelle della ricezione, dell'ospitalità, della enogastronomia, della fattoria didattica, delle passeggiate a cavallo. È un modo, insomma, per riappropriarsi della campagna anche per le nuove generazioni. Grazie a Vittoria Brancaccio, che è la presidente, ricordiamolo, di Agriturist. Cantavano i Beatles, tornate ai paesi di origini, tornate alle vostre terre, se vi va, non è che qui ve lo stiamo dicendo per forza, però siccome c'è della gente che lo fa e ha dei motivi, secondo me anche vari, noi adesso mi sono tolto questo sfizio di sapere come si apre un agriturismo, abbiamo sentito Tommaso che comunque aveva un'attività, ma non è solo quella, e se avete sfumature diverse, 800 24 0024, intanto sentiamo Giulia, benvenuta. Buongiorno a tutti. Giulia, che cosa sei tornata a fare? Dove? In Calabria, vero? Sì, sono tornata in Calabria dopo 12 anni di vita capitolina, dove facevo la reporter freelance, lì ho studiato all'Accademia di Cinema di Cinecittà Documentario e poi ho deciso di tornare a fare il mio lavoro qui in Calabria per raccontare la mia terra. Quindi intanto diciamo una cosa, non necessariamente bisogna cambiare lavoro, uno può dire ho imparato un lavoro e dopo 12 anni me ne torno a casa. Sì, assolutamente, io almeno ci sto provando, non è facilissimo, effettivamente come diceva Tommaso, a volte ci sono dei momenti in cui si pensa, oddio, e adesso chi me l'ha fatta fare, però in realtà io sono per il momento entusiasta, anche se da poco, sono 4 mesi e sto cercando di capire come muovermi per poter fare il mio lavoro qui e rimanere qui il più tempo possibile, soprattutto perché credo che il meridione che soffre di queste forti ondate migratorie ha bisogno di un ritorno, di un grande ritorno, e invito molti giovani a pensarci, a tornare, perché è importante, il meridione ne ha bisogno. Ma tu hai trovato un posto in cui fare la giornalista oppure sei tornata e hai detto adesso ci provo da qui? Ci provo da qui, ho mantenuto dei rapporti che ho con la televisione, insomma la televisione nazionale, quindi vorrei raccontarla sul nazionale, però sul locale ho trovato delle collaborazioni, quindi diciamo che mi sto muovendo. Da calabrese romanizzata ritornata in Calabria, cosa ti manca di Roma? Sicuramente l'interscambio che si aveva, perché Roma è una città multietnica dove c'è molto più contatto con le persone, è una città d'arte, sicuramente sotto questo profilo mi manca un po' l'interscambio, ma proprio col mondo, ecco. Sai che però il sindaco di Roma qualche mese fa disse che Roma è la più grande città della Calabria, tu lo condividi? Beh, per alcuni versi sì, devo essere franca, per alcuni versi probabilmente ha ragione, anche se c'è un po' questo modo di vedere anche il sud in senso sempre un po' caotico, mentre bisognerebbe pensarlo anche sotto altri aspetti. Senti, ma tu sei tornata da un'altra parte della Calabria o a casa dei tuoi? No, no, sono tornata per il momento nel mio paese d'origine, ad Acri, che è un paese incastonato tra le montagne della Sila greca. E i tuoi come l'hanno presa? Sono contenti o è una convivenza? All'inizio mio padre era preoccupato, perché diceva a Roma avevi più opportunità, perché comunque stavo sviluppando dei rapporti, ho avuto l'opportunità di lavorare con Mediaset piuttosto che collaborare con la Rai da freelance, quindi era un po' preoccupato, però poi hanno detto vabbè, vediamo un po' come va, del resto se dovesse andare proprio male, insomma, le valigie si fa sempre in tempo a farle, però io penso che per il momento dobbiamo mettercela tutta per cercare di raccontare la nostra terra, almeno questo è il mio piccolo obiettivo. Brava Giulia, e noi sentiamo Riccarda. Pronto? Sì, ciao. Ciao a tutti. Riccarda, da dove vieni? Dove sei andata? Dove vuoi tornare? Allora, io sono di Adria, provincia di Rovigo, che è un paesino vicino al Delta del Po. E adesso momentaneamente abito a Bologna e sono tornata più o meno un anno fa, nel senso che abitavo in Inghilterra, Londra. E sono partita nel 2008 e vi ho abitato per un anno e poi sono tornata qui a Bologna perché l'ho scelto io, nel senso che comunque io credo che comunque ci voglia un grande coraggio per ritornare alle origini, però bisogna soprattutto riuscire ad assaporare la voglia che si ha di fare una determinata cosa e farla davvero fino in fondo, nel senso che comunque io stavo benissimo a Londra, però... Cosa facevi? Scusami, cosa facevi a Londra? Allora, io a Londra lavoravo per un'azienda di moda, premetto sono laureata in storia dell'arte, quindi... E scusa, a Rovigo, ad Adria, lo potrai fare? Allora, intanto adesso momentaneamente sto a Bologna, sto con il mio fidanzato e stiamo benissimo, abitiamo in un piccolissimo monolocale che spero prima o poi... Sì, sì, sì, ma il lavoro, ce la farai a fare la moda ad Adria? Guarda, la moda ad Adria probabilmente non riuscirò a farla, però credo che comunque bisogna sempre circondarsi delle cose che ci fanno stare bene. Ok, quindi una scelta di una scelta di benessere e di vita. Sento la sigletta che mi dice che bisogna andare, tornare a casa, anche per me, anche se a casa mia è qui. E niente, noi torniamo invece qui a Radio 24 domani. Grazie ad Alessandro Chiappini, grazie a tutti voi che avete ascoltato Giro di Vita. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.